Diciamo la manifestazione è nata in questa fase particolare che stiamo attraversando, che attraversa il movimento per il diritto all'abitare, ma non solo, è nata con un tentativo di raccogliere intorno ad alcune parole d'ordine molto semplice, che vanno dalla difesa dei diritti degli spazi e contro il fascismo, contro il razzismo, un'area politica nella città la più vasta possibile, perché pensiamo e siamo convinti che in questo momento ci sono alcune battaglie che fanno la differenza, insomma, sulle quali bisogna sapersi schierare. Il percorso è stato abbastanza importante, insomma, ci sono state una serie di iniziative, ci sarà quest'altra giornata di lotta per cercare in qualche modo di contrapporsi a quello che è il decreto di Salvini, che tende a così a cancellare dalla faccia di questo paese tutta una serie di realtà, come sta avvenendo, come vedete tutti i giorni. Insomma, ieri hanno sgomberato a Bari, l'altro giorno a quel rifugio che si era creato per aiutare i migranti ad attraversare le Alpi, eccetera. Quindi c'è un meccanismo che tende, come dire, a sollecitare la parte più profonda, più nera del paese contro queste esperienze che sono invece state esperienze di accoglienza, probabilmente le uniche capaci di in qualche modo, non solo ovviamente queste, ma insomma come forma di lotta che puntava al diritto all'abitare, di accogliere le varie esigenze, quindi di creare quei luoghi che sono stati luoghi anche di comunicazione, di conoscenza tra realtà sociali diverse, tra interrazziali, interculturali, insomma sono state esperienze importantissime, dentro le quali il meccanismo ultimo, cioè l'attacco è stato continuo, insomma dal famoso decreto Minniti all'articolo 5 che levava le residenze, quindi un tentativo più viscido da parte del governo di centrosinistra, del governo Renzi, più diretto da parte del Salvini e dei 5 Stelle della situazione, che attaccano queste esperienze in nome di una legalità che non conosce invece una capacità di dialogo con le realtà e non dà proposte che non siano demagogiche. Quindi dentro questa realtà la manifestazione di sabato credo che sia un segnale importante che vada colto da tutti, perché non è solo contro gli sgomberi, ma per difendere quegli spazi di libertà che ci siamo conquistati in questi anni e che, se non stiamo attenti, uno alla volta vengono attaccati, e sarebbe veramente da stupidi e da idioti non comprendere come la difesa di uno spazio non è la difesa di quello spazio, ma la difesa dei percorsi di lotta che abbiamo costruito in tutti questi anni, no? Per cui non è solo una forma di resistenza, ma la necessità di costruire l'altro a partire appunto anche dalla difesa di questi spazi. Lo slogan mi sembra chiaro, insomma, perché si vuole arrivare ad uno scontro diretto nei confronti di questi soggetti sociali che si ribellano, una serie di norme che stanno all'interno del decreto di Salvini tendono a colpire ulteriormente non soltanto i migranti che alzano la testa e che quindi si organizzano e lottano, ma tende a colpire anche tutti coloro che in qualche modo nel corso degli anni hanno dato e continuano a dare, vogliamo continuare a dare un percorso non è tanto di solidarietà quanto di lotta nei confronti di un governo e di una realtà più complessiva che è una realtà schiacciante. E quindi la manifestazione di sabato forse sarebbe dovuta essere più vasta, si sarebbe dovuto cogliere questo aspetto, però già tutte le realtà anche diverse tra di loro che hanno aderito alla manifestazione ci danno un segnale d'attenzione che credo che sia importante, insomma, costruire un fronte che vada al di là della manifestazione di sabato, perché problemi ne avremo e ne avremo tanti nei prossimi mesi. E certamente, senti, avrebbe potuto essere più larga sicuramente, però è anche vero, diciamo, che è un appello che è nato dai movimenti di lotta per il diritto all'abitare e poi comunque è riuscito a espandersi in qualche modo a altre realtà e soprattutto altre situazioni di lotta che sono presenti nella nostra città, no? Sì, questo è il dato positivo. Sarà la mia illusione in questa fase è capire. Poi ovviamente queste rimangono, come dire, più illusioni, però riuscire a costruire un fronte ampio, che sappia difendere lo spazio sociale, che sappia difendere i posti di lavoro, insomma, che saltando quei meccanismi che portano a tante frammentazioni, che invece mi pare vadano aumentando nel quadro politico che ci abbiamo intorno a noi, no? dentro un quadro istituzionale che è quello che ben conosciamo, e dall'altra parte invece una necessità di ricostruire, a partire da che cosa? Dalle realtà di lotta, perché se no ricostruiamo soltanto verbalmente le cose, non siamo capaci di rendere importanti quelle esperienze che in qualche modo si sono opposte in questi anni allo strapotere, all'attacco profondo che i padroni in tutte le varie forme hanno fatto nei confronti dei movimenti. Per cui io mi auguro e spero, ne sono abbastanza convinto, che sabato questo messaggio sarà colto non soltanto ovviamente da chi da anni combatte per il diritto all'abitare, ma anche da tutti quei settori, quelle persone, quei compagni e quelle compagne che in questi mesi si rendono conto, si lamentano, sono arrabbiati rispetto a quello che sta succedendo, perché quello che succede da noi è lo stesso che sta succedendo a Riace, cioè quindi con un aumento del livello di attacco nei confronti di tutte le esperienze, in una politica economica del paese estremamente confusa, e invece questo è l'unico passaggio che dà garanzia a questo governo, che non è un governo casuale, che non è capitato lì per caso, perché ovviamente ci dà l'immagine concreta della fase sociale e politica che stiamo attraversando. E questo si chiamasse Salvini o Di Maio, si chiamasse in qualsiasi altro nome, rappresenta quella parte, a mio parere, della società che in qualche modo si contrappone dentro quelle che sono le crisi internazionali, cercando di trovare i responsabili di turno. Quindi il ricostruire una possibilità, tra virgolette, di sinistra, di saper costruire un mondo diverso, parte soprattutto dalla nostra capacità di difendere l'esistente. Dopodiché c'è molto da lavorare, c'è molto da capire, c'è molto da costruire, ma insomma se non siamo in grado di difendere quello, credo che costruiamo molto poco. Assolutamente. Quindi, dimmi. No, ti ho interrotto così per sbaglio. No, ma è qui, insomma, il senso di questa manifestazione è questo, il messaggio che deve arrivare alla città è che ci dobbiamo rendere conto che difendere gli spazi, qualunque essi siano, di qualsiasi, tra virgolette, appartenenza politica che si abbiano, è un dovere, politico e morale di tutti quanti noi, insomma, perché se no ha voglia a fare vignetta, arrabbiarci nei confronti di questo o quel personaggio di questo governo improponibile. Insomma, le cose vanno costruite, va capito anche qual è il livello di conflitto sociale che dobbiamo mettere in piedi, e qui non ci regala niente nessuno. È chiaro che verranno, con Elicò hanno fatto operazioni che sono state plateali, perché servivano a questo governo, perché sono vergognosi, insomma, no? Si punta a rendere pubbliche solo le cose che interessano, tutto il resto viene nascosto, per cui magari sgomberi secondari vengono fatti in un grosso apparato di forze di polizia, con la cosa vergognosa che i giornalisti lo sanno prima delle persone che vivono in quegli spazi, cioè quello che lo sgombero fatto a Tor Sapienza, i giornalisti lo sapevano il giorno prima, insomma, erano state mandate le telecamere, quindi anche con un certo servilismo che si riaffaccia anche nei mass media nei confronti del governo di tutto, del governo di turno, nei poteri attuali, che è un'operazione evidentemente più generale, insomma, no? Per cui si dà questa immagine di questo governo. È come la storia dei migranti, insomma, lo sappiamo, no? Che sulla questione delle navi, delle onde, tutti i giorni ci hanno tempestato, ci hanno sconquassato con queste storie qui, per far vedere quanto il celoturismo della Lega in qualche modo funzionasse insieme agli idioti di 5 Stelle, dopodiché continuano a venire sbarchi tutti i giorni e nessuno ne parla, perché la cosa che interessa è far vedere come ci si oppone, e mentre una realtà che non si può bloccare, nonostante questi porci che in qualche modo provano a farlo, mentre gli sbarchi continuano imperterriti, a Lampedusa continuano tutti i giorni a sbarcare nuovi migranti, tutto nel silenzio, perché l'unica cosa che interessa è se viene bloccata quella nave che ha salvato migliaia di persone nel Mediterraneo, e che quindi per far vedere quanto in gamba questo governo viene strombazzato da una parte all'altra ai 4 venti, poi quello che avviene quotidianamente, perché insomma le migrazioni non si fermano, la gente ha più paura a fermarsi che andare avanti, tutto questo viene taciuto, per cui ci possiamo immaginare nei prossimi mesi come sta avvenendo, insomma, per cui stanno distribuendo, per cui hanno fatto Milano, Bari, in parte hanno fatto Roma. Roma ovviamente rappresenta l'ostacolo più duro per quanto riguarda le forme di occupazione della città, ma insomma arriveranno a fare qualche cosa anche qui, ovviamente cercando di colpire tutti coloro che stanno difendendo questo diritto sacrosanto, il diritto all'abitare, alla vita stessa delle persone. E comunque non bisogna disturbare il manovratore, insomma, questo sembra una grande massima che va bene per tutti i governi che si susseguono in qualche modo. Senti Bruno, ti ringraziamo. L'ultima cosa, ci puoi ricordare orari e punti di partenza per la giornata di domani? Piazza Vittoria e la partenza, l'orario lo sai che non lo ricordo. Le 15 comunque, immaginiamo. Sì, la partenza è confermare che è Piazza Vittoria. E l'orario non lo so, adesso leggiamo e confermiamo. Sì. Va benissimo. Okay, grazie mille, un abbraccio, a presto. Grazie. Ciao.